Trascorro le mie ore ad avvicinar le stelle, ad annullar con le mie mani la distanza di quelle, e guarderò con gli occhi chiusi nuovamente. Terminavi un tuo ritratto dopo ogni temporale. Ieri il sole esponeva un tuo ultimo ritratto. Era pronto in un baleno e tutti lo chiamavano arcobaleno.